sempre di evitare lo scontro. Si può andare avanti ed essere felici, senza scordarsi di trovare nuovi amici. E cominciare sempre dalla cosa giusta, e quando è il momento saper dire basta.